Beh, la situazione più drammatica penso che sia quella al confine di Evros con la Turchia, perché c'è stata questa iniziativa del governo turco di togliere ogni controllo e di spingere masse di immigrati verso territori greci in modo che possano passare confine. C'è una situazione di gravissima tensione, non solo però per la pressione della grande massa, parecchie migliaia di gente, decine di migliaia di gente che preme per attraversare il confine, quanto invece sul fatto che questo è un confine già di per sé molto molto sensibile, molto controllato, con grandissima presenza militare, per cui non è una crisi di migranti come quella che c'è stata qualche anno fa a Idomeni, ai confini col nord della Macedonia, ma è una crisi di migranti che si aggiunge e che è anche provocata da progetti politici, diciamo così, della Turchia e verso i contrasti con i paesi confinanti. La decisione di Erdogan sembra proprio quella, come dire, di usare i migranti come arma contro l'Europa. Sì, è esattamente quello che sta facendo, diciamo così, può contare sul fatto che la risposta dell'Europa fino a questo momento è stata quella che probabilmente Erdogan si aspettava, cioè di non fare assolutamente nulla e di lasciare continuare, diciamo così, la politica per cui del problema dell'immigrazione se ne devono occupare solo i paesi di confine, quindi la Grecia, l'Italia, la Spagna e non invece l'Unione Europea nel suo complesso. E questo ovviamente aggiunge tensione a tensione. Qual è l'atteggiamento del governo greco in questa vicenda? Il governo greco fa di tutto per bloccare questa pressione migratoria, quindi convincere in tutti i modi, con tutte le maniere, questa gente che non è possibile attraversare il confine e quindi di bloccare questa pressione e convincere a tornare indietro. Dall'altra parte le autorità turche fanno esattamente il contrario, per cui c'è una grandissima massa di gente che sta bloccata tra due eserciti e due polizie che spingono nelle direzioni opposte. Rispetto all'isola di Lesbo, la situazione lì invece è un pochettino diversa, perché gli immigrati arrivano con le barche. Finora non abbiamo avuto, per fortuna, nessun tipo di incidente con questi barconi, e il tentativo del governo greco è quello di coinvolgere di nuovo Frontex e di esercitare, di convincere l'Europa ad esercitare pressioni verso la Guardia Costiera turca affinché eserciti il controllo sulle sue coste e sulle partenze di queste barche, perché il timore è molto diffuso qui in Grecia che ci sia prima o poi qualche incidente grave con questi barconi. Certo, ecco, a tuo avviso come se ne esce da questa situazione? A mio avviso se ne esce con un bel colpo di Stato in Turchia che rovesci Erdogan, per esempio. No, a parte gli scherzi e le battute, non è un problema di confine tra Grecia e Turchia, non è un problema solo di immigrazione. Qui abbiamo, secondo le valutazioni che ci sono qui in Grecia, siamo a una svolta importante nella politica neo-ottomana di Erdogan, che si sta giocando a Idlib in Siria. Lì effettivamente si è visto che i suoi progetti di egemonia nel mondo sunnita stanno crollando, i suoi flirt con la Russia sono arrivati a un punto morto. Il suo isolamento, diciamo così, anche nel mondo occidentale, nel mondo, l'universo NATO, l'universo Unione Europea è sempre crescente, per cui siamo alla resa dei conti di una politica avventurosa, espansionista, provocatoria verso tutti i fronti possibili e immaginabili che poteva aprire nell'ultimo ventennio, per cui non ci sarà una soluzione del problema di Evros se non c'è una svolta, diciamo così, nella strategia generale di Erdogan, nella sua politica estera. In questo senso però l'Europa sembra molto silente, ecco. L'Europa anche in questo caso sembra silente, perché non ha una strategia, si culla nell'illusione che l'accordo sull'immigrazione con la Turchia sia ancora valido. Alcuni paesi addirittura ancora parlano di processo di adesione della Turchia all'Unione Europea, un processo che oramai da un decennio oramai è assolutamente immobile, non si muove, non fa neanche un passo avanti, e si vuole cullare di queste illusioni pensando ai grossi investimenti che molti imprenditori europei, molti italiani hanno fatto negli anni passati in Turchia, seguendo in maniera, diciamo così, poco prudente i suggerimenti avventati di una certa leadership politica. Che cosa possiamo dire su questo? È l'ennesima prova di una scarsezza politica dell'Unione Europea. O usciamo da questo letargo, oppure, non lo so, faremo la fine come europei, faremo la fine che ci meritiamo, francamente.